Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Proviamo a pensare per un attimo alle radici dell'America. Tra le varie cose che ci possono venire in mente, ce ne saranno senz'altro due. Da un lato, gli indiani, cioè i nativi americani, simbolo della cultura originaria del nuovo continente. Dall'altro, la Chiesa anglicana metodista, uno degli strumenti che rappresentano invece la colonizzazione da parte degli europei. La meravigliosa e incantevole voce protagonista della puntata di oggi dei Magnifici Destini ha nelle proprie origini questi due elementi, figlia di un pastore metodista e di una giovane insegnante di origini indiane Cherokee. La premessa, quindi, è che parliamo di un'artista profondamente e intensamente americana, Tori Amos. Bought himself a bike to race, and Greg, he writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. We'll hold on to nothing as fast as you can. Well, still pretty good, yeah. Erede designata di cantautrici come Kate Bush e Carole King, Tori Amos è da oltre 20 anni una straordinaria interprete del mondo del rock al femminile, con canzoni intense che hanno rivelato le molteplici facce di una personalità alla sua, complessa e multiforme. Angelo e peccatrice, bambina e femme fatale, pura e seduttiva come il rosso dei suoi capelli. Nel timbro della sua voce si raccolgono questi contrasti e si mescolano con elementi che sembrano richiamare quell'americanità profonda di cui abbiamo accennato. Anch'essa, allo stesso tempo, intensamente centrata su un cocktail profondissimo di gioia e dolore. Gioia e dolore, metodo e ribellione, abnegazione e rottura degli schemi. La carriera di Tori Amos è tutto questo sin dai primi anni. Immergiamoci allora nella vita e nei magnifici destini di questa straordinaria artista. La nostra protagonista nasce a Newton, North Carolina, il 22 agosto 1963. Vero nome? Myra Ellen Amos. A 2 anni sa già suonare il pianoforte. A 4 compone le prime musiche. Era una bambina freak, con un buon senso del ritmo. Da prima c'è stato il pianoforte. Ho iniziato a suonarlo da giovanissima. Mia madre dice che avevo sì e no 2 anni e mezzo. E tutti mi consideravano una bambina prodigio. Tant'è vero che non ho avuto alcuna difficoltà a vincere una borsa di studio messa in palio dal Peabody Institute, il prestigioso conservatorio di Baltimora. Il prestigioso Peabody Conservatory di Baltimora, nel Maryland, dove si trasferisce con tutta la famiglia, è uno dei templi della musica classica negli States. Ma la piccola Ellen, prodigio per precocità di talento, lo è anche per senso di ribellione. Visto che fin da piccola ascoltavo quasi soltanto rock, che consideravo la mia musica per antonomasia, non fui ritenuta idonea per lo studio della musica classica. Se a questo si aggiunge il mio carattere ribelle e profondamente naif, non può certo sorprendere il fatto che ben presto fui cacciata dall'Institute. Non avevo ancora 12 anni. Questo è il suo insegnante di pianoforte, Pat. Eseguiva alla perfezione le sonate di Beethoven, ma poi si stancava e attaccava le sue canzoni rock. Così chiamavo i miei figli ad ascoltarla. Rimanevamo tutti estasiati mentre lei eseguiva al piano pezzi di Jimi Hendrix, dei Doors e dei Led Zeppelin. Pensavo, diversi compositori classici erano come le rockstar del tempo. Chopin e Mendelssohn lo erano. Schubert non ebbe molto successo se non dopo la morte. Ricordo di aver letto che Scarlatti e Handel facevano un duello con i loro clavicembali e qualcuno doveva scegliere chi fosse il migliore a suonarlo. Era un po' il Lollapalooza, il festival che da diversi anni fa suonare le più importanti rock band del pianeta una dopo l'altra. Quindi da un lato abbiamo una bimba talentuosa che incanta tutti per come suona il pianoforte. Poi c'è un conservatorio, ingessatissimo, che vorrebbe inquadrarla come musicista classica. Infine c'è una famiglia in cui domina, nel vero senso della parola, il padre padrone, pastore metodista che costringe sua figlia, intonata di natura, a cantare in chiesa la domenica nel coro della parrocchia. Dulcis in fondo troviamo l'anima rock e ribelle della fanciulla, che spariglia le carte e che complica tutto, in casa e fuori. Presi malissimo l'esclusione dal conservatorio. Anche se mi era sembrato un luogo molto chiuso, rappresentava per me la possibilità di una carriera musicale. La musica per me era tutto e io non mi rassegnavo l'idea di doverne fare a meno. Per fortuna mio padre, che in realtà nei primi anni della mia vita era stato molto duro, da quel momento fu veramente molto comprensivo con me. Mi stette sempre molto vicino, mi spronò a continuare in maniera autonoma i miei studi. E questo, devo dire, che mi fece molto bene. Una volta, pur di farmi esibire, mio padre non esitò ad accettare per me anche gli ingaggi più strani, come quelli di un paio di club cittadini per soli omosessuali, cosa che per lui era assolutamente inconcepibile. Fu proprio lì che il mio carattere, già molto indipendente per natura, si affinò ulteriormente. Quando Tori Amos usa, riferendosi a suo padre, il termine chiuso, si serve del classico eufemismo. Il padre era ultraconservatore. Spesso teneva riunioni di preghiera interminabili a casa, coadiuvato anche dalla nonna, calvinista oltranzista. Per permettere al talento di sua figlia di emergere, però, l'uomo è disposto a tutto. Semplicemente, mia figlia è geniale. Direi che è il Mozart femminile dei nostri tempi e il suo talento non può essere sprecato. Certo, per me il pianoforte è un essere vivente e mi capita spesso di abbracciarlo, lo bacio, come se fosse il mio fidanzato. Inoltre, credo che non siano state esplorate fino in fondo tutte le sue potenzialità. Il pianoforte è l'unico strumento acustico che può essere usato anche in modo percussivo o come un'intera orchestra, oppure ancora può essere fonte di incredibili effetti rumoristici. È uno strumento straordinario. Se gli dai tanto, te lo restituisce con gli interessi. La madre dell'Amos rappresenta il legame con l'America dei nativi. Da lei apprende l'amore per gli spazi ampi, fisici e interiori, per la natura selvaggia, per la libertà. Quando ormai ventenne si esibisce regolarmente nei pub e nei locali di Los Angeles e di Washington, nella sua voce già si notano tutte queste influenze stratificate. L'impostazione classica, un certo rigore, retaggio dell'educazione metodista, il desiderio di rompere le regole, di trasmettere passione e intensità senza barriere e senza cliché. Il tutto condito da una forte dose di sensualità. In realtà, dal mio punto di vista, quello che appare come sensuale rappresenta soltanto il mio grande desiderio di donare amore. E se dentro questo amore c'è spazio anche per il sesso, beh, mi sembra una cosa fin troppo ovvia e naturale. Ci sono ancora troppe donne in giro che si vergognano di mostrare in pubblico la propria passionalità e troppi uomini che fuggono come conigli davanti ai loro sentimenti più intimi. Myra Ellen Amos comincia a usare il nome con cui viene chiamata nello show business underground, Tori, che significa pollastrella. Il nomignolo gli viene affibbiato da un amico che esprime in forme un po' rozze l'effetto che il suo grande fascino esercita su di lui. Lei non esita ad appropriarsene ed ecco che nasce Tori Amos. Il percorso della mia musica coincide perfettamente con l'evoluzione della mia vita personale e il mio profilo artistico risente senza dubbio delle mie radici. La musica per me è sempre stata un mezzo per esprimere la mia dimensione interiore, i miei sentimenti, i miei pensieri più profondi. Io scrivo ciò che provo e canto con il cuore, con lo stomaco, con le viscere. Anche nei primi testi che Tori compone, emerge un tema centrale: il contrasto tra le proprie libertà personali e i vincoli che pone la religione, un retaggio evidente del suo contesto familiare. Tori, nonostante i contrasti con il genitore, afferma di non avere mai perso la fede in una religione universale. Credo in un grande spirito, in una divinità di cui Maometto, Buddha e il Dio cristiano fanno parte. Ho compiuto una profonda ricerca passata, anche attraverso i miti dell'antichità, la mitologia classica e lo studio di alcuni riti pagani. Intanto, negli ambienti underground che Tori frequenta e in cui si esibisce, spopola un nuovo genere di tendenza, il glam metal. Il glam rock è stato il genere che ha imperversato negli anni 70 a partire dalla seminale esperienza di David Bowie e del suo Ziggy Stardust. Poi ci sono stati Alice Cooper, i Kiss, chili e chili di make-up a mascherare tutti i disagi ereditati dai fallimenti delle aspirazioni sessantottine. Negli anni 80 il sound si fa più duro. Il pop del glam rock si fonde con l'heavy. Nasce il glam metal, gli stivali di serpente, i capelli cotonati, le power ballad e i ritornelli iperorecchiabili dal sapore pop su impianti ritmici pesanti. I Motley Crue diventano negli States il gruppo di riferimento. Tori non sfugge alla moda del momento. Nei locali in cui si esibisce, il suo sound prende una piega heavy pienamente in sintonia con la moda del momento, conservando il tocco personale del suo pianoforte, strumento che le permette di confezionare delle efficacissime power ballads. In questi locali, proprio nel giro glam metal, Tori Amos diventa amica di Matt Sorum, futuro batterista di gruppi mitici come Guns N' Roses e Cult. Tra i due nasce un buon rapporto personale e musicale e una proficua collaborazione. Tori nel frattempo ha registrato il suo primo brano in studio che convince profondamente Matt. I due progettano di fondare una band, reclutando altri professionisti di grande spessore. Sarà il primo passo della luminosa carriera di Tori Amos. I magnifici destini. Abbiamo raccontato fin qui i primi passi di Tori Amos, il primo singolo, l'ascesa negli ambienti underground e nei club di Washington e Los Angeles, da una costa all'altra. Abbiamo anche spiegato come nella sua voce, in quel cocktail di aspetti angelici e di sensualità, vi sia tutto il retroterra culturale e familiare che ha formato la cantante dai capelli rossi. Il magnifico destino che la instrada verso il successo si chiama Steve Catton. Dunque, Steve Catton è uno dei più importanti e influenti musicisti americani degli ultimi 20 anni. Non è un divo, è prima di tutto un turnista, un session man, e poi anche produttore e autore, e soprattutto uno che con la chitarra ci sa fare e come. Il suo incontro con Tori Amos avviene nel 1985. Non mi ricordo bene in quali circostanze, ma io e Tori fummo presentati da Matt Sorum, un amico comune, che ci fece conoscere proprio convinto che tra noi sarebbe potuta nascere un'ottima collaborazione. Beh, naturalmente ci ha visto giusto. Matt Sorum, futuro batterista dei Guns N' Roses, aveva conosciuto Tori nei locali underground di Los Angeles, dove lei si esibiva. È lui che presenta Tori Amos a Steve Catton. Tori e Steve mettono in cantiere subito un progetto ambizioso, una band prima, un album poi, che portano lo stesso titolo, Why Can't Tori Read, che tradotto vorrebbe dire Perché Tori non sa leggere. A pensarla oggi, quella formazione accostata a Tori Amos fa sorridere. Si tratta di una vera e propria hair metal band, in puro stile glam, con capelli cotonati e stivali di serpente. Dal 1985 per 2 anni suonano dal vivo, in attesa dell'occasione giusta. Insieme ai due fondatori, altri musicisti celebri come lo stesso Matt Sorum, Steve Ferris, Vinnie Colaiuta, Peter White, Kim Bullard impreziosiscono il combo. Poi, nel 1988, la Atlantic offre loro la giusta opportunità, produzione e distribuzione del disco. Il risultato però è incredibilmente sotto le attese. La produzione è di Joe Ciccarelli, che dà al disco un'impronta ben precisa. Musicalmente l'album si colloca tra il rock patinato e addirittura il pop di Madonna, con una serie di riferimenti anche estetici che risultano evidenti nel video che la band realizza per il primo singolo, The Big Picture. In ogni caso, l'impressione è quella di un disco confuso, un pasticciato cocktail di stili diversi. Nella tracklist si alternano brani power pop sguaiati, inni puramente dance e desolanti sconfinamenti nel rap. In maniera piuttosto concorde, la critica salva soltanto Etienne Trilogy, unico brano che anticipa un po' di ciò che sarà Tori Amos in seguito. Un colossale flop, insomma, che la stessa Amos ha poi rinnegato definendolo così. Se dovessi sintetizzare quel disco in poche parole, direi Kate Bush e Madonna in rotta di collisione dopo aver mangiato funghi cattivi. Per volontà della cantante, l'album oggi è quasi introvabile. Perché? Solo per la sua discutibile riuscita? No, di certo. Purtroppo l'album, o meglio il periodo in quella band, si lega a uno spiacevolissimo episodio che accade a Los Angeles una sera del 1985. È appena finito un suo concerto. Tori dà un passaggio in macchina a uno spettatore. Qualche chilometro più in là, l'uomo le punta una pistola alla tempia e la fa fermare. La violenterà sul retro dell'auto, lasciandole un segno indelebile per tutta la vita. In un caso di stupro, la cosa più dolorosa è sentirsi tradita. Da un'amicizia, sì, ma anche da te stessa. Non riesco ancora ad accettare di aver dato al mio aggressore l'occasione di sfogare il suo odio per me e per tutte le donne. Dopo quel disco poco ispirato e mai troppo amato dalla stessa cantante, l'Atlantic caccia la Amos in Gran Bretagna per piccole collaborazioni. Tori, per campare, è costretta ad accettare di girare uno spot per i cereali Kellogg's e di apparire come comparsa in qualche telefilm. Tori però non demorde, e con lei il fido Steve Catton, che la supporta, la incoraggia. Oltre a Catton, però, Tori Amos, proprio in quella fase, conosce un altro uomo che sarà per lei un magnifico destino. Si tratta del produttore e poi anche fidanzato Eric Rossi. Rossi è un produttore serio e preparato, ambizioso e lungimirante. Vede in Tori Amos un potenziale grande successo. I due iniziano a frequentarsi, il fascino rassicurante di lui tranquillizza e rasserena lei, che trova la giusta vena creativa. I due si fidanzano, si rinchiudono in studio e con l'ausilio di Steve Catton progettano nuove canzoni destinate ad essere incluse in un album. Il metodo che usano è questo. Prima Tori suona le canzoni solo con l'accompagnamento del suo fidato piano, poi sovraincide e arricchisce con altri strumenti. 4 anni dopo il debutto stentato arriva il vero esordio per Tori Amos e il mondo della musica viene letteralmente scioccato. Esce Little Earthquakes del 1992. Suoni scarni e spartani, musica che va dritta al cuore alternando ballate a pezzi up-tempo molto efficaci. Sotto si percepisce un cuore pulsante di passioni, di sentimenti, di rancori trattenuti e mai sopiti. Yes, I know what you think of me, you never shut up. Yeah, I can hear that, but what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. C'è un pezzo in Little Earthquakes che Tori ha dichiarato di avere composto dopo aver visto Thelma e Louise. Si tratta di Me and a Gun, crudo resoconto solo vocale dello stupro avvenuto a Los Angeles. Un pezzo straordinario per intensità e spessore. You can laugh, it's kind of funny, the things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados, so I must. C'è chi la paragona a Kate Bush, chi a Joni Mitchell, chi a Lisa Germano. Tori Amos però si capisce subito, è semplicemente Tori Amos. Unica, originale, sensuale, delicata. Sempre minimalista ed essenziale, sempre straordinaria nel tirare fuori il massimo dai tasti del suo pianoforte. L'album la consacra come fenomeno dell'anno. Little Earthquake scala le classifiche e quella ragazza prodigio, cacciata dal conservatorio di Baltimora per la sua anima ribelle, si prende la sua straordinaria rivincita. I magnifici destini. Oggi, ai Magnifici Destini, vi abbiamo raccontato la storia di Tori Amos, le sue origini, la sua famiglia, con un padre pastore metodista e la mamma indiana Cherokee, i suoi studi, i suoi esordi avventurosi, il dramma dello stupro, l'heavy metal, il boom dell'album d'esordio, Little Earthquake. I suoi Magnifici Destini, Steve Catton ed Eric Rossi, musicista e arrangiatore il primo, produttore e fidanzato il secondo. Il team offre il bis nel 1994, con un album capolavoro, Under the Pink. È il disco della definitiva consacrazione in tutto il mondo. Il titolo così buffo nasce da una battuta della stessa Tori. Sotto i vestiti siamo tutti rosa. I contenuti e i testi dell'album, però, sono tutt'altro che rosei. 3 milioni di copie in tutto il mondo. Un successo straordinario. L'album contiene 12 ballate in cui Tori si emancipa definitivamente dal modello Kate Bush e propone un rock di difficile classificazione, intenso e schizofrenico. I temi dei brani, poi, sembrano voler perlustrare il pianeta donna in ogni sua sfaccettatura, raccontando le pieghe più intime dell'animo femminile. In Under the Pink è eccezionale il lavoro svolto da Eric Ross, che con una produzione straordinaria ha portato il sound a livelli d'eccellenza. Per quanto riguarda i testi, ho voluto esprimere, come sempre, tutta me stessa, cosa che ho tentato di fare anche con il piano, abbandonando ogni freno e lasciandomi totalmente andare. L'ascesa e il successo di Tori Amos è una sinfonia in 3 atti. Dopo Little Earthquake e dopo Under the Pink, arriva il terzo che la issa stabilmente al vertice dello show business. Si intitola Boys for Peel. Ho attraversato il mio fiume Stig con quell'album. Si può dire che mi ha portato a migliorare il mio rapporto con gli uomini in un certo senso, e che è frutto del dolore, di un dolore molto intenso, profondo. Il dolore è quello della separazione con il fidanzato e produttore Eric Rossi, con cui la storia naufraga nel 1995. Le voci che si rincorrono dicono che probabilmente anche un'altra storia, immediatamente successiva, quella con il leader dei Nine Inch Nails, Trent Reznor, amico intimo di vecchia data, sia naufragata proprio in quel periodo. Fatto sta che Boys for Peel è un album irrequieto, scuro, cupo, problematico. 70 minuti ipnotici e ammalianti che scuotono l'ascoltatore nel profondo. L'inquietudine si respira anche solo sfogliando il booklet. La copertina ritrae Tori versione cowgirl, sporca di fango e seduta davanti a una capanna di legno imbracciando un fucile, con la selvaggina appesa al soffitto. Immagine che susciterà indignazione tra i movimenti animalisti americani. All'interno si susseguono ombre, spettri e figure di bambini dietro le finestre della capanna. La stessa Amos che allatta un maialino e un vecchio piano a coda in fiamme, riflesso in una pozzanghera. Non mancano punte polemiche e attacchi personali. Il brano Professional Widow pare sia dedicato a Courtney Love, rivale in amore, così si pensa, proprio per Trent Reznor. Just like my dad. Gli album successivi, tra alti e bassi inevitabili e conseguenti luci e ombre, confermano Tori Amos come una delle voci femminili di punta della scena rock mondiale. Altri drammi, come la perdita di una bambina, segneranno la sua vita e verranno taumaturgicamente rielaborati in musica, confermando quella sincerità che ha sempre contraddistinto Tori. La sua ormai è una figura di riferimento. Basti pensare ad artisti come Rufus Wainwright o Fiona Apple, che da sempre hanno ammesso il proprio debito con Tori Amos. La sensuale e angelica voce del rock Made in USA.